Elena Tirelli. Ho detto bene? Sì, presente. Che ha una voce spettacolare. Sì, io l'adoro, l'adoro. Secondo me è già proprio un coxo spettacolo. Ed è la super mega galattica ospite della 150esima puntata del Coxo. Esatto. Con la quale parleremo di... Tocca a me? Certo. Parleremo di Dulcamara. È una... Che Dulcamara... questo nome che pure io, che non avendo la patente non frequento tanto, io so che a Dulcamara si fanno ad esempio marmellate deliziose, si fa che cosa si fa? Poi si fanno feste a primavera e non solo, che è un posto dove la qualità, il cibo e l'accortezza per il territorio tutto insieme fanno filotto. Fate anche filotto, sì. Ma forse gli altri, noi lavoriamo. Sì. Bene, Dulcamara sì, è sulle colline di Ozzano, è un'azienda agricola gestita da questa cooperativa di nome Dulcamara fin dal 1984. Le persone che adesso ci lavorano non sono più i soci fondatori, perché hanno preso altre strade. Ora ci sono persone nuove, giusto uno è rimasto dei soci fondatori, che è il grande Silvano Ranalli, che ancora ci consiglia, ci aiuta e ci firma i verbali quando è necessario. Perché si chiama Dulcamara? Perché si chiama Dulcamara? Ah, questo bisogna chiederlo ai soci fondatori. Io, quando nasce Dulcamara? Nel 1984. Wow. Io ricordo che mi è stato detto che hanno messo in un cestino tanti biglietti e hanno estratto e venuto Dulcamara. Ma tu eri una bambina nel 1984. No, avevo già la mia età, ma con questa facevo voce dell'altro. Hai capito. E quindi Dulcamara non sappiamo bene cioè da dove viene come nome. Vabbè, perché è stato scelto. Dolce, sì, presumo. Io che non ho fatto latino. Fiore. Dulcamara è un fiore che cresce però più in alto, non è lì in quelle zone lì più in alto. Io l'ho visto a 1200 metri di altezza, un piccolo fiorellino viola. Dulcamara è anche un personaggio di non mi ricordo di che opera. Ah, questo dovrei saperlo io, però non mi sfugge in questo momento, è l'emozione. dove c'è un dottor Dulcamara che è magico. No, infatti devo dire che era veramente un sacco di tempo che qualcuno non si emozionava per essere in trasmissione a Coxo Spaziale. Cioè siamo una trasmissione così coxica che tendenzialmente... Ma fra l'altro lei emozionata è venuta qui con coraggio, mi sa che hanno pescato la paglietta corta tra quelli che adesso sono tra i dulcamaresi, e infatti abbiamo lì la Betta, Erika, Francesco, Anna, Adeline, Daniela. La paglietta corta è toccata a Elena, che è arrivata qui con un ottimo anticipo che ci ha permesso insomma di conoscerci, e ha portato anche un ospite silente che ci ha già aiutato a facilitare alcune cose dei miracoli tossici che succedono in studio. Ma possiamo dire il nome dell'ospite silente? Non lo so. Elio. Si chiama Elio. Io ho sentito anche la sua voce, non so voi. Anch'io un pochino. Un pochino? Va bene, ma allora. Io sono in studio, per cui non vale. Sull'ospite silente io direi che possiamo far partire il primo branino. Lui già stava scappando indietro. Io la paglietta corta non l'ho pescata, l'ha pescata Elena, perciò io me ne sto zitto. E mettiamo un branino. Che branino mi dici? Metti il primo. Che quindi che così possiamo continuare a parlarci sopra. È Josh primo, esatto. Gura. Va bene, lo metto. Viene dalla Danimarca, credo. No. sì, perché ah, tra no, l'altro nel Canada, cioè il Canada ha una tradizione di circhi notevole, il Cirque du Soleil canadese. È nato in Canada, il primo gruppo di Cirque du Soleil. Sul Cirque du Soleil ce ne sarebbero da dire, magari potremmo anche spremere un po' qualche informazione sul nostro, con il, sul nostro ospite telefonico, se becchiamo lui. Sì, comunque, con il Cirque du Soleil. Salutiamo il nostro ascoltatore canadese e riprendiamo sulle note di Gura. Sì, Gura. Che forse è finlandese. No, Josh è come il nome di un cinese. Perché è partito? Ah, devi spegnere il mixer, scusa, quello là. No, dicevo cosa? È americano, Josh. Ah, è Josh americano ma vive in Canada. No, quello è Stefano Stagni, è italiano e vive in bolognese. Canada. Bolognese, no? Del sud. Ciao Stefano. Ciao. No, è bolognese doc. Mentre invece Josh è americano ma si è trasferito in Svezia. Vedi Elena com'è il coxo, tu che ti preoccupavi. È così il coxo, ci perdiamo a chiacchierare e poi butto lì, ma sentiamo lo dopo il direttore ci sgrida perché diciamo delle cose autoreferenziali. È la nostra specialità. Ma l'hai preparato quel gingolino a proposito? Quale? Quello lì. Ah, certo. Che ah, ottimo, ottimo. Allora lo teniamo per dopo. E allora, invece, qui noi, cioè il nostro ascoltatore storico, Giffo da Vicenza, ci ha chiesto: ma perché l'arte come non l'avete mai? Sì. E da qui potremo cominciare anche a chiederci: ma cosa ci fa un agriturismo al coxo spaziale che si occupa di arte che non avrete mai? Te lo chiedi un po' anche tu, Elena. Cosa ci faccio io qui perché ho pescato quella maglietta corta? Perché è giusto venire a comunicare alla cittadinanza che anche lassù sulle colline noi cerchiamo di attirare persone per farle divertire, farle ricreare, non solo guardando gli spettacoli che saranno sicuramente fantastici, ma anche mangiando le nostre prelibatezze. Ed infatti noi siamo qui perché Coxo Spaziale ha già trattato, comunicato con Dulcamara attraverso Nando e Maila, la compagnia Nando e Maila di teatro comico, e che insomma, essendo teatro, dici ok, al Coxo ci veniamo e ne parliamo di questa rassegna che abbiamo cominciato a costruire. Dulcamara, il Coxo parla di teatro anche sì, però lo fa un po' di nascosto, come non guardando dall'altra parte. Tipo sì, però non sono io, no? Un po' così, no? E in questo caso abbiamo pensato, visto che domenica prossima parte l'edizione invernale della rassegna Dulcamara Circus. Certo, sì. Abbiamo pensato, ma perché invece che prenderla dal punto di vista del teatro che va a lavorare in un agriturismo, non andiamo a chiedere un pochino com'è, perché e che cosa è cambiato soprattutto ad un agriturismo che ha chiamato degli attori e ha fatto crescere questo discorso, perché a questo punto le rassegne sono due, sia quella primavera-estate che quella invernale, quindi il che significa che il successo c'è stato e il connubio va avanti. Cosa mi dici, Elena? Beh, il connubio con Nando e Maila, sì. Diciamo, sì, e loro poi certo. Fanno da ponte con tutti questi grandi artisti che noi non conosciamo, siamo ben felici di ospitarli e conoscerli, vedere i loro spettacoli e grazie a Nando e Maila, che sono dei nostri vicini, noi collaboriamo in questo senso, noi offriamo il luogo e l'ospitalità. Ma sono rumorosi come vicini o sono tranquilli? No, tranquilli. Mi hanno anche invitato una volta a bere del vino a casa loro. Com'era, era buono? L'ho portato io. Allora era buono di sicuro. Potremmo invitati anche noi a bere del vino se lo porti tu. Fantastico. Ma e quindi questa cosa mi è... Quindi loro hanno questo contatto di gruppi che fanno teatro, in particolare teatro comico, circo, acrobatico e quant'altro, anche stranieri, che vengono da voi per la rassegna e voi li ospitate e quindi li avete un po' anche lì da voi a vivere prima dello spettacolo? No, giusto dalla sera prima al massimo. Okay. È successo, purtroppo non possiamo godere di queste persone più a lungo, perché sono sempre molto impegnati, sono di corsa, sono in tournée, vanno, vengono, sono quindi così. Diciamo che il pregio del connubio al momento lo godono strettamente le persone che poi vengono a Duca al Mara, che lo conoscono e si trovano anche in mezzo a questa festa e a queste offerte teatrali. Sì, in un luogo meraviglioso, perché lassù c'è il bosco, i prati, gli animali, il silenzio, i cieli, le nuvole, e poi ci si ritira per uno spettacolo meraviglioso, dopodiché di nuovo si possono lasciar correre i bambini, quindi è di più di uno spettacolo, è una giornata, è un'avventura interessante. E volevo chiederti, visto che ormai insomma è dal 2015 che è stata inaugurata questa, questa partnership, questa... Certo. Che cosa c'è? Ho una domanda? Ho una considerazione incredibile. Sentiamo. Scrive sempre Fuga per Art, detto anche Giffo, l'Elisir d'amore di Donizetti. Grazie. È stato Giffo. Mi ricordavo l'opera in cui c'è Dulcamara. Pensa un po', che Giffo quante ne sa quell'uomo. Sai che c'è una chiamata in arrivo, che faccio? Rispondo? Ma una chiamata addirittura? Pronto? 333 180 94 94. Buonasera, chiamiamo da Pescara. No, ma non ci credo. Chi è? Chi è? Mi aveva telefonato al cellulare e mo. Gente, amici del Pasquini. Conosci Pasquini? Ma di tanto in tanto. Ti deve dei soldi anche a te. No, a me no. Ma chi sei tu? Chi sei tu? I soldi degli Ulster dell'ultima volta. Vabbè, gli devi i soldi dell'Ulster, Pasqua. Sai che io non so chi è, ma chiunque sia la tua voce da Pescara, sei in diretta? Lui si chiama Occhi Blu. Siamo d'appunto per questo, dicendo, se vuoi andare in diretta vi facciamo un bonifico per gli Ulster. Ok, Pasquini, mi spiace, sei fregato. Ma chi sono? Chi sono, Stefano? Giampaolo, chiaro. Chi è? Ciao, sono Letizia, è presente, l'unica persona seria di questa baraonda che è cara. Che l'anno scorso con Pasquini abbiamo fatto l'intervento con Cavallucci. Ah, ciao! Ma che meraviglia! Ma ti stanno chiamando con WhatsApp? Con che cosa ti chiamano? Non è un telefono. Quindi. Ma è che si è parlato con Pasquini, quell'altro cretino di Giampaolo che chiama Pasquini e gli parla dei Houston. Se io non so cosa devo fare. Sì. Tu fai bene a cercare di scusarti. No, vabbè, Stefano ha detto la sua pasquinata. No, avete fatto benissimo a chiamare, siamo nel bel mezzo della puntata e non lo so, volete. Mi serve un plugin però per seguirvi, perché non riusciamo a sentirvi. Ah, ma perché usano il Mac? Devono usare l'open source. Domani è Linux Day, diglielo. Domani è Linux Day, perciò voi dovreste usare l'open source. Detta così non si capisce un granché. Però noi vi vogliamo bene lo stesso. Sì, sicuramente hanno tutti anche degli noi. iPhone, sono veramente spaventosi. E quando capitate da queste parti, veniteci a trovare in persona, così dopo il Cox andiamo anche a festeggiare questo amore, a celebrarlo. C'è anche Zino? C'è anche Zino? Sì, sono io. Ciao, Ben. Ciao, Zino. Allora, questa sera andiamo col secondo tuo episodio, tuo minuto. Certo. Bene. Io preparo, io ogni settimana preparo per voi. Bravo, ogni settimana un pezzo, ci piace così, perfetto. Comunque io, Petra, ti voglio dirlo anche a Pasquini, che io sono la persona più seria qua e non mi considero nessuno. No, io ti considero, mia cara, ti considero. Spegnili subito, dai, stava a parlare. È nata a Rovigo, quindi non è che bisogna troppo mirare. Chi è che è nata? Beh, io sono nata a Padova, quindi capisco perfettamente. Ma non è vero che è nata a Rovigo. Va bene, ragazzi. Siamo in una situazione un po' improponibile di triangolazione con il microfono. Il telefono è stato bellissimo che ci abbiate chiamato, finalmente una voce dal mondo reale. Manca un plugin, come facciamo? Se lo spedite in PDF? Che gli dici, Stefano? Glielo spedisco in PDF. Te lo spedisce in PDF il Pasquini, che lui su ste cose è un genio. Pasquini! spaventoso. Ciao ragazzi, grazie per aver chiamato. Fatto sta che effettivamente gli snob come loro che usano Mac, hanno il computer Mac a casa, hanno l'iPad, hanno l'iPhone, poverini, non possono ascoltare. Ma davvero? Radio Città Fujiko. Ma certo, davvero? Radio Città Fujiko è tutta open source e non è naturalmente. Ma lo sapevi, Elena? Compatibile con il Mac. Neanch'io lo sapevo. Per quel che mi riguarda è ostrogotto. Io sono. Comunque sono ho un messaggio che non c'entra niente, però visto che ormai sto leggendo tutti i messaggi che mi arrivano, Li Ruhan dice: ok, io prendo la mia certificazione provvisoria di laurea lunedì, se ci sei. Bene. Peccato che non ci sono, perché a lunedì non ci sono a Torino. Molto bene, adesso che abbiamo finito di farci i fatti nostri. Io volevo chiedere ad Elena da quanto tempo sei arrivata al Dulcamara, sei diventata una dulcamarese doc. Dunque, dulcamarese doc sono da diciamo 8-9 anni, in Dulcamara lavoro da 12 anni. Perché noi ci chiamiamo dulcamaresi quando cominciamo a sognarcela anche di notte, prima siamo dei dulcamarani. Ok, ho capito, interessante. E quindi da quando sei diventata una dulcamaresi, cioè quindi in realtà la storia d'amore è partita 12 anni fa. Sì, assolutamente. È stato un grande. E come è cambiato in questo periodo, in questo lungo tempo? Dulcamara. Yeah. Com'è cambiato? Beh, diciamo che mano a mano mi sono sempre sentita più custode di questo luogo che è diventato una parte della mia vita. Dulcamara. Ecco, questo è il pasquino disturbatore che ti dicevo. No, la cosa strana è che io ho scritto dulcamarese e, lui, e lei legge dulcamara. Ha deciso di correggermi. Se gli mancherà il plugin anche a lei. Esatto, no, bisogna andare open source anche con Google Translate. Sì, per forza, sarà una bella lotta, comunque. Comunque, quindi. Cavato Slatki. Chiaro, no? Sì, per chi ci ascolta dalla Russia. Dalla Russia, sì, che certo. Insomma, siamo una comunità in crescita. E quindi, diciamo che il pregio di Dulcamara è forse rimanere il più fedele e uguale a se stesso, preservarsi. Sì. Certamente, difatti se chi viene è stato in Dulcamara tanto tempo fa e viene ora la trova simile, qualcosa è cambiato, le persone sono cambiate, ma Dulcamara è sempre quella, è un'azienda, è un luogo semplice. Ma tu qualcosa fai di specifico? Io di specifico sono marmellatiera. Davvero? No, davvero sei tu? Qual è la marmellata super top? Io pensavo che fosse una battuta, invece è vero. È vero. La sacra marmellatese. Ho cominciato in Dulcamara facendo marmellate, ancora sono, diciamo che è uno dei ti hanno promossa a detta le marmellate, dopo sì. 15 anni. Quindi anche poi le torte, mi immagino, biscotti. Le torte, diciamo che c'è Erika che e anche Jacopo che ci stanno dando una mano intensa. Poi che marmellate fai? No, prugne, rusticani, fichi. Wow, marmellata di rusticani. Melecotogne. C'è anche questa cosa che secondo me ti piacerà particolarmente, perché l'alimentazione durante tutta la rassegna Circus è rigorosamente vegetariana. Lui è vegetariano. Sono vegetariano. Bene, non si direbbe dalla faccia e dal comportamento. Allora, come il les étangs de Stefano au Canada. In che lingua era questa? Era francese. Come si dice Stefano Stagni in canadese? Stefano Stagni. Invece lui l'ha tradotto come... Io ci ho pensato, Elena invece è prontissima. L'étange de Stefano. L'étange. Adesso io il mio francese continuo a fare schifo, anche se in teoria Duolingo dice che sono fluente al 16%. Fa sentire qualcosa? La lettre, le lettre. Però effettivamente faccio abbastanza schifo ancora. Però. E come si dirà la marmellata in francese? La marmellata. Ah beh, ma allora altro che 16%. L'ho detto che la confiture. Ah, no, è vero, perché marmellata è solo quella d'arancia, come in francese, è come in inglese. Tirelli batte Pasquini 1-0 e forse anche oltre. La confiture. E chi è che si occupa del seitan? Il seitan lo compriamo direttamente, si occupa, c'è Francesco che lo cucina, ce lo prepara, noi lo compriamo, è già fatto. Anche perché fare il seitan è una roba Io qualche volta l'ho fatto, però il risultato c'era, ma non così ciagnoso come... Evidente, non se ne accorge nessuno. Beh, Francesco, quello potrebbe essere un pregio, Una buona mano per renderlo appetibile. Va bene, allora facciamo così. Esatto. Noi siamo arrivati a che un... Che ci manca un minuto e mezzo, secondo e me, quindi... per farci sentire il vino e poi la pubblicità. Ma ci leggiamo nel pensiero ormai, è proprio... Oggi sapevo di dover fare la regia io. E allora io vado con la sigla di Zino, che dite? Yeah! Mi sembra giusto. Se ce la fai. Guardalo che voleva farlo lui, adesso ti metto che ci sono i telefoni che ti metto a te. La rubrica di Zino. Come il nome di un cinese. Come il nome di un cinese. Oggi mi sento giallo e quindi posso parlare di cose frivole come Bassano del Grappa e l'arte. Non sapendo fortunatamente però nulla di Bassano del Grappa, mi limiterò a guardare fuori le nuvole che non so mai se vanno o se vengono, non l'ho mai capito. Come quando da piccolo giocavo a cercare forme nelle nuvole. Poi quando sono diventato grande cercavo di farle io le forme con le nuvole e quelle di fumo. I cerchi non mi sono mai venuti bene, un po' languidi, un po' rififì. Come la lampada Ikea che mi illumina il muro bianco proprio qui davanti. Ah, ecco la sensazionale idea. Ora so cos'è la vera essenza dell'arte contemporanea. È il muro bianco. Perché nell'arte contemporanea c'è sempre qualche cazzo di muro bianco. Anzi, spesso è il solo muro bianco a contestualizzare la cosa appesa ad esso come arte contemporanea. Se avessi abbastanza soldi, penso proprio che comprerei un muro bianco. Così inviterei Pasquini e la bella Fedra a cena. E potrei fare colpo su di lei, o su di lui, recitando a memoria la frase «Sovvertimento dei valori spaziali», riferendomi a quel muro bianco nuovo di pacca. Chissà, magari funziona. O forse no. Perché alla fine l'arte contemporanea è come un bel porno. Per assaporarlo bene, bisogna guardare le figure e tralasciare i testi e le parole. Una colazione con pasticciotti e cornetti leccesi nel centro di Bologna. Friselle, burrate, soccoli, centro di terapia ionotoretica. Ci prendiamo cura di te. Cox spaziale. Ed eccoci tornati in diretta. Speriamo ci siate anche voi, ragazzi, dall'altra parte del vetro. Ci siete? Datemi un cenno. Sì, no, non so. Ecco, è lo spirito giusto, perché stiamo andando incontro a quello che c'è dopo la pubblicità della mezza. Oddio. Quella rubrica che, insomma, ormai è forse anche il nostro gioco come Coxy. Di che cui dici? Cui jingle gestisci tutti tu? Punto sì, di domanda. Esatto, molto quella bello. Lì, proprio grande. Questa qui. L'angolo della menzione. Ma è vero che è morto quello che dice sta cosa qua? Ma io non l'ho più visto. No, era una battuta. Sabato 22, che poi domani, aspetta che effettivamente... No, leggo io, non ti preoccupare. Dalle 9 di mattina, cioè alle 9 di mattina io di sabato, tu dimmi un po'. Sì, è una giornata il intensa. Linux Day. Appunto! Appunto, la giornata promossa dall'Italian Linux Society ha l'obiettivo di diffondere la conoscenza del sistema operativo GNU/Linux, che non so come si pronuncia, GNU, e del software libero, che è quello che a noi piace. Linux Day, nell'edizione bolognese, propone due percorsi, delle conferenze rivolte ai più esperti e incontri con i membri dell'associazione, che saranno a disposizione di tutti i curiosi di questo modo alternativo di vivere l'informatica e la tecnologia. A Bologna l'appuntamento all'Istituto Belluzzi Fioravanti, dove per tutta la giornata si alterneranno talk, appuntamenti o workshop su software e progetti in open source. A prendere la parola saranno sia esperti che studenti dell'Istituto Scolastico, che racconteranno i progetti didattici che hanno seguito. Sti Coxy, veramente, visto? È un ottimo cappello, e però in realtà noi abbiamo il primo super mega galattico ospite telefonico. Tanto per non essere autoreferenziali. Che è qui, eccolo qui, che è il Cox esperto del software libero, ma non solo. Lui è Paolo Patruno. Ciao Paolo. Olè. Eccolo. Ciao. Che è talmente sul pezzo rispetto ai Coxy che ti ha cazziato sui volumi, cioè cosa che io ho smesso di fare perché tanto no, non mi ha cazziato sui volumi, mi ha semplicemente detto che anche Radio Città Fujiko partecipa al Linux Day, e in particolare ci sarà proprio Paolo Patruno, insieme Andrea ad Andrea Gozza, wow, alle 11 della mattina. E adesso Paolo, 11, no, in due minuti allora, un po' presto. Sì, 11 e mezza, verso le 11 e mezza. E adesso diciamo, Paolo in due minuti due ci spiega cosa c'entra in questo scenario Radio Città Fujiko. Radio Città Fujiko un bel po' di anni fa, parliamo di almeno 15 anni fa, ha iniziato a utilizzare software libero, perché come dice il titolo del talk che ci sarà domani, come si fa a fare una radio libera senza software libero? Cioè è un controsenso in termini, e quindi giustamente radio, allora si chiamava Radio Città, che è diventata poi Radio Città Fujiko, ha iniziato a utilizzarlo. E da allora abbiamo fatto tanta strada. Allora eravamo dei pionieri, perché per fare alcune operazioni, alcune cose, era complicatissimo, eravamo i primi a farlo, tra i primi a farlo, bisognava fare addirittura compilare i sorgenti, fare delle modifiche, insomma era abbastanza complesso, e poi riciclavamo computer, quindi era comunque impegnativo, insomma diciamo così, da veri duri. Adesso è un pochettino più facile, diciamo, però anche le esigenze sono sempre maggiori, e si continua a farlo, insomma, quindi abbiamo una radio che non ha praticamente una riga di codice proprietario, quindi possiamo smontarla completamente anche dal punto di vista software, conoscere cosa c'è dentro. Mi sentite? Ci siete ancora? Certo che ci siamo. No, siamo completamente ammaliati dalla tua voce e dalle tue spiegazioni. Io sento l'urgenza di mettere questo. Cioè, cavoli, chi l'avrebbe detto? Infatti. No, infatti. Ecco, vamo là. Ecco, e domani per chiudere questa introduzione parleremo, a parte di questa scelta, di una cosa poi un po' in particolare, che è un software che si chiama Autoradio, che non ha a che vedere con le automobili. Che noi lo stiamo usando. Con l'automozione. E quindi è il software che utilizza la radio per organizzare le playlist, organizzare la pubblicità, i jingle, le trasmissioni che non vanno in onda in diretta, tipo la nostra è in diretta, giusto, vero? Sì. E questa è in diretta, sì. Ci sei anche tu dal vivo, okay. Sei la prova. Sono le 21:38. Oppure le 21:39 nell'altro orologio. Ma questa non è una prova, perché Autoradio è talmente preciso che potrebbe anche riuscire a fare mandare in onda una trasmissione. E allora io provo con questo a questo punto. Adesso poi a Capodanno. La provo con questo, mi spiace. Ah, addirittura. No, dico adesso poi a Capodanno vediamo quando fate il conto alla rovescia. Mamma mia, quante emozioni, Paolo. Ecco. Grazie per essere stato qui, ci vediamo domani e magari mi fai anche da navigatore in questa lunga giornata, perché io sono una neofita e sono curiosa e verrò a sentire e a capire se riesco a capire qualche cosa. Sì, ci sono dei laboratori, ci sono sia cose abbastanza tecniche che cose abbastanza da principianti, introduttive, da curiosi, diciamo così. Perfetto, quindi da stanotte sul nostro www.coxospaziale.blogspot.com per i link, però magari anche direttamente domani alle 9 al Fioravanti della lista, certo, della scuola. Perfetto, sì. Grazie Paolo, ciao! Ciao, grazie. Dicevo, come minimo ti dovrebbe formattare il Samsung. E chi? A me? Paolo, sì, certo. Perché? Dopodiché, sabato. Sì. Ho capito. Alle 16:30 lo leggi tu. Alle 16:30? Cambio armadio, a camere d'aria, porta 10 capi di abbigliamento e ho accessori puliti e non indossati più. I nostri sarti valuteranno il loro stato di fashionabilità e dopo la valutazione avrai libero accesso alla scelta di nuovi capi dello stesso valore. Alle ore 18, self-management alla Galleria Astuni mostra un esperimento di self-management nato dalla creazione di un gruppo di conversazione sull'applicazione di messaggistica mobile WhatsApp. E di solito c'è... Vuoi aggiungere qualcosa? Ma sì, è naturalmente una galleria d'arte e di solito c'è da mangiare e da bere in abbondanza. Questa è una dritta che effettivamente ci voleva. L'applauso non lo mettiamo, però possiamo procedere con... Vai tu con i nomi difficili? Vai. Anatrofobia. Per me è difficilissimo. 22. Sì, non è difficile. Alle ore 22. Più Caboto Live al caseificio di Poviglio. quindi quella quella lì non è nulla. Ah, all'associazione culturale Caseificio La Rosa di Poviglio, in provincia di Reggio Emilia, si ritrovano per un doppio concerto live i piemontesi Anatrofobia e gli emiliani Caboto. Serata tra atmosfere jazz e sonorità rock di ricerca. E a questo punto, per farvi capire un pochino com'è quell'atmosfera lì di ricerca, io vi propongo un pezzettino dei Caboto. Ah, ecco che mi chiedevo che che è questo qua. Facessero. Dire qualcosa di stupido. No, io avevo scritto così. Diciamo qualche stupidaggine. Ah, ok, dire qualche cosa di stupido. Sì, sì, diciamo che non è tradotto. Vabbè, comunque questa era Cane di Neve dall'ultimo album dei Caboto, che sono una band che era nata 10 anni fa e che adesso sta ritornando un pochino, la stanno richiamando a suonare di nuovo. E poi su www.coxospaziale.blogspot.com, oltre a tutti i dati per il concerto di domani, anche Bandcamp, il loro sito da cui ascoltare e scaricare. Ma tu lo sai chi era Giovanni Caboto? Sì. Ah, lo sai. Era un argonauta. Un argonauta, era un gran... Gnocco? No, era un gran figo perché ha scoperto l'America del Nord nel 1497. Cioè, ci voleva la scala, no? Dico, ci voleva la scala a scoprire l'America del Nord nel 1497. No. Io rispondo così. Molto bene. Sì, rispondo così. Siamo arrivati a domenica 23. Esatto, bravo che mi stai sul pezzo. Vedi? Alle ore 16, cosa succede? Cosa c'è che fa questi rumori? Non so. No, è lui. La poltrona dello studio. È il nostro ospite silente con le meravigliose nuove poltrone. Mi piace che si manifesti studio. Di tanto in tanto. È giusto così. Ok, andiamo a busso perché qua ce n'è. Appunto, leggo io. Vai. Alle ore 16 le acrobazie musicali di una coppia in disaccordo all'agriturismo Duca Mara. Come dicevamo prima, la compagnia di teatro comico Nando e Maila inaugura la rassegna invernale del Dulcamara Circus con un concerto spettacolo comico con acrobazie aeree, giocolerie musicali e prodezze sonore. E abbiamo insieme a noi in viaggio Federico Cibin, che è l'organizzatore, ha aiutato ad organizzare questo evento e quindi conosce benissimo Dulcamara, Nando e Maila, mm-hmm. che è qui per darci qualche piccola anticipazione su quello che sarà. Dico bene, Federico? Buonasera, benvenuto. Sì, buonasera a tutti, grazie. Federico Cibin, un abitué di Coxo Spaziale. Sì. Sono quasi in stazione a Padova in questo momento. Casuccia mia, prendi un tramezzino al volo. E, fra l'altro, Stefano. Cioè, un tramezzino indica uno Ciao, strip. Pasqui. Ciao. Lui è stato un Coco Coxo occasionale in tua assenza. Ah, sei stato il W al posto mio. Esatto, certo. Ha portato il W. Ho capito, grande, hai fatto benissimo. E infatti, presto. L'avrai portato meglio di me, sicuramente. L'ha portato insieme alla Irma Investe W Ridolfini, che salutiamo tanto e che sappiamo che. Oh. Guarda, ha fatto la prima volta che ha fatto la faccia. Un po' dolce in tutta la puntata, che era seria come un baccalà. Mi senti? Pronto? Sì, scusami, eccomi. Hai ragione, io torniamo. Vi avevo perso. Sì, benissimo. Perché sai, le gallerie di Padova sono famose per le montagne. No, effettivamente ultimamente telefonare in treno sta diventando difficile. Ma e com'è la situazione lì? C'è una bella atmosfera? Sei tranquillo? Ma io in treno, dici? Sì, il vagone è semivuoto, il treno è in ritardo di 30 minuti, quindi rischio di perdere il regionale al cambio a Mestre, ma insomma queste sono cose che non interessano agli ascoltatori. Ah, è vero, però mi dimentico, succede, hai ragione. Succede anche a loro, giornalmente. Sì. Dai, sì. Federico, beh, siamo qui con Elena. Ciao Elena. Ciao Federico. Ciao, allora, sì, a prestissimo, niente. Ti aspettavi la Betta, qui invece. Invece, sono venuta io, la Betta aveva impegni inderogabili. Si è millantati tutto all'ultimo momento. Certo, tutti quanti si sono ritirati. Avete lì la presidenta di Dulcamara. Ah, hai capito, manco ce l'ha detto, penso. No, a me l'ha detto, però me l'ha detto fuori dai microfoni, perché un po' si vergogniamo. Allora, a tradimento. Io sono una rana dalla bocca larga, quindi dico sempre tutto. Ma deve essere un cromosoma veneto, perché capita spesso anche a me, veramente. Vedi. Vabbè, tornando a noi. Tornando a noi, allora, avete già detto, come giustamente Pasqui ha detto, domenica inaugura questa rassegna di circo teatro per le famiglie all'Agriturismo Dulcamara, che noi come compagnia Nando e Maila abbiamo curato sotto l'aspetto della direzione artistica. Noi apriamo con uno spettacolo della compagnia Nando e Maila, le acrobazie musicali di una coppia in disaccordo. Vi aspettiamo, è uno spettacolo che ha girato tutta Europa, Comicità Musicale, adatto a tutta la famiglia. Sì, se non sbaglio, si tratta di una sfida, perché Nando e Maila cercheranno di far suonare ciò che di norma non suona, ovvero la struttura aerea, quindi ci saranno suoni, voli e provocazioni e sfide in tempo reale. Sì, esattamente, il tutto condito da una storia d'amore che parte con un tradimento all'inizio dello spettacolo. No, il comunque tradimento questo, no. Sì, è uno svelamento che non dovevo... Attenzione. Federico, siamo in arrivo a Padova. Ah, ecco. Tu però cambia Mestre, giusto? Quindi ci abbiamo ancora un pochino. Sì. Perfetto. C'è del tempo. Allora, no, salutami mia mamma dal finestrino, poi. Invece, prima di salutare te dal Coxo, che ovviamente verrai a trovarci di persona, ti volevo chiedere, ma quindi questa programmazione come procede nelle prossime settimane? C'è qualcosa che ci vuoi anticipare, ad esempio tutte le domeniche? Allora, sì, assolutamente. L'appuntamento è a cadenza settimanale, quindi ogni domenica... da qui fino al 20 di novembre c'è uno spettacolo diverso, sempre di circo teatro. Assolutamente da non perdere anche lo spettacolo della settimana prossima, quindi di domenica 30 novembre. C'è un artista canadese, si chiama Andréanne, la sua specialità è l'hula hoop. Lei fa di tutto con l'hula hoop. La domanda è cosa non riesce a fare mentre fa girare hula hoop. Credo e quindi che ne riesca a tenere. Lo spettacolo è su quello che non riesce, su quello che con l'hula hoop non riesce a fare. Quindi si tratta di un dramma esistenziale. Sto scherzando, ovviamente. No, in realtà è bravissima. È stata anche, credo, ad Italia's Got Talent, fosse il programma. che è tipo Portobello nei nostri tempi. Esattamente, sì, un po' una corrida, se vogliamo, anche diciamocelo via. Però Andrean è molto, veramente molto brava ed è veramente bello lo spettacolo comico. Io l'ho visto dal vivo, da non perdere. Perfetto. Per i prossimi eventi c'è qualcosa di diverso. E sì, per i prossimi eventi ci riaggiorniamo. Assolutamente. Ok. Con le menzioni. Ma sì, dimmi una cosa, Federico. Ma qual è la marmellata che viene meglio alla Elena? Ma io ne ho assaggiata una veramente buona, ma non la faceva Elena, era la mia preferita. No! Però questo è stato proprio licenziato in tronco, Federico, che mi è venuto in mente. Ma io non lavoro per Dulcamara. No, vabbè, ma per quello ti dovranno, insomma, per la rassegna. La mia preferita era mele e cannella, credo. La facevo io quella. Sì, sì. Eri tu? Certo. Scusami, Federico. Allora strude l'imbarazzo. Qua ci sta. Allora mele e cannella. Una scoperta a carrambata, riunito. Perfetto. Quindi, allora, io chiudo dicendovi che le acrobazie musicali di Una coppia in disaccordo chiuderà lo spettacolo con un numero che proveremo, come dire, sperimenteremo per la prima volta domenica. È un'anteprima assoluta in cui faremo suonare tutta la struttura. Sono 13 strumenti contemporaneamente. Come? Lo dovete venire a scoprire. Preciso un attimo, la struttura è quella struttura di ferro, alluminio sì, di tubi molto alta, in cui si fissano strumenti come il tessuto aereo, il trapezio. Bravissima. Dico bene? Sì, e quindi sì, è una mega altalena per averla visualizzata, ok, diciamo. In termine tecnico circense, a struttura famo suona a struttura oppure o portico come dicono a Portici a Napoli, ecco. Va bene, faremo una puntata sui lessici interregionali legati al circo, che farà sempre bene. Intanto però la facciamo dal regionale che sta prendendo la mestra. Sì. Buon cambio a mestre. grazie ciao Federico, ciao. Dopodiché si passa mercoledì 26 alle ore 19 alla presentazione del libro Programmazione Neuroquantistica at ABC. Ce n'è ancora? Sì, sì, sì. Un'occasione per avvicinarsi ai nuovi studi sulla coscienza dalle nuove tecniche di Mental Emotional Training supportate da questi studi. Ma che è? Pedro, che cos'è? Ci vorrebbe una telefonica, per approfondire. Perché non è né arte né. Guarda, mercoledì ci vado e così poi venerdì te lo racconto. Esatto, mi sembra giusto. Mi raccomando, fatti fare un elettroshock. Cosa faccio io? Ti leggo l'ultima? Nonostante i miei errori. Non so, vogliamo la meravigliosa voce di Elena. Effettivamente. Allora, giovedì 27, ore 21:00. AA 2016 Miss Cinema, Istituto Storico Parri, Bologna. Archivio aperto proietterà un catalogo di provini 16 mm dall'archivio di Home Movies, Fondo Mossina. Ritratti di ragazze, aspiranti stelle del cinema, per lo più sconosciute e anonime, che concorrono a concorsi di bellezza e casting per pellicole non identificate. Cioè non esistono, non ho capito. Esatto. È una raccolta di provini raccolti tra il 1945 e il 1950, quindi siamo... In realtà, per essere precisi, dal 1942 al 1952. Perché la dislessia ha anche questi aspetti. Comunque, però fortuna ci sei tu. Esatto. Quindi sono arrivate dal vivo. Sì, sono perciò provini di persone che hanno provato a diventare stelle. Gente che concorre a concorsi, insomma. Ed è molto interessante, secondo provini me. Provini di persone che provano. Anche ho capito. Perché sarà sonorizzato dal vivo. Però poi Francesca Baccolini e Rocco Marchi si offendono se non menzioniamo i loro nomi, sono i sonorizzatori. Ma li conosci? Sono tuoi amici? No, non so. io rispondo quando sono un po' in contropiede, c'ho lo stacchetto e cavoli, ste menzioni sono durate mezz'ora quasi. Beh, certo, continui a telefonare a gente sul treno, non ho capito, scusa. No, io vabbè, volevo parlare con Nando e Maila, volevo capire com'è che facevano a suonare mezzo trombe, mezzo... Allora, per quello ti conviene prenotarti, insieme. Ma occorre prenotare per venire? No. Venite, allora occorre che ti metti lì, verso le tre, parti da casa tua con tua moglie e i bambini e andate a vederlo. Mi carichi su anche me, che mi prendi per la strada, esatto, che tanto sono di passaggio. Poi ci facciamo due selfie col cane. Ci vediamo lo spettacolo, scopriamo come si noreggerà la struttura e ci assaggiamo la marmellata. Ma voi non avete anche uno struzzo, no? No. Ma ci avete anche gli animali? Certo. Che animali ci sono? Agriturismo è che sia. Jenny, Ramona, Platero. Che ci stanno ascoltando anche loro. Pallino di Tullo, non lo so. Secondo me sono là che dormono. A proposito, guardiamo se ci hanno mandato un messaggino. Allora. Su Facebook non si può più vedere perché è scomparso internet. Non mi chiedete perché. Invece su WhatsApp al 333-180-94-94, che magari lo dico alla fine. Però non chiamatelo perché altrimenti rispondiamo. Ci avete messo giù il telefono, maledetti. E ora Giampaolo piange per questo. Zino. Oh, occhi blu. Poverino. Comunque, noi abbiamo 2 minuti di Lolli. Sì, ci siamo dimenticati la musica di sottofondo, ma va bene. Ma perché... eravamo impegnati, col telefono non si sente. Salutiamo. Chi salutiamo? Salutiamo Elena. Già che finito. È stata qui, mandiamo cavoli, 2 minuti di Lolli. E buonale. Allora, Elena, cioè hai qualcos'altro da raccontare su Dulcamara? Che... Al volo, al volo, al volo, al volo, al volo. Qual è la tua... Perché non ci hai detto che... Perché? Il segreto della marmellata. Se ne importa del presidente. È più divertente fare le marmellate e biscotti. Ma quindi la paglietta corta è stata: tu sei il presidente, se non ci vai tu, ci deve andare. Esattamente. Era per quello alla fine. Capisco benissimo, perché anch'io sono un presidente. Di cosa? Insomma, dell'associazione Tieschi poi One, chi gli altri del per mondo. Cui siccome quando appunto nessuno vuole mai andare da nessuna parte, allora tocca al presidente. Ricordiamo che da domani questa mega galattica puntata sarà ascoltabile da www.coxospaziale.blogspot.com, dove troverete i link di tutte le cose che abbiamo parlato, della rassegna di Dulcamara, della sua rassegna circense, una foto di Zino nudo, una foto nostra qui dalla diretta anche con l'ospite silente, o almeno brani del suo corpo, forse. E brani del suo corpo, sì, magari non mi viene, sai. e forse anche la ricetta della marmellata segreta di Elena. Silenzio. Questo basso livello di radiofonia, ascoltiamo la sigla. Che in realtà sono i 2 minuti di Lolli numero 29. Ciao, grazie per essere stata qui. Grazie anche a voi. A presto, a domenica. Ciao. I 2 minuti di Lolli hanno una durata percepita variabile. No, ma tanto... tanto non vedo. Ma no, per farti vedere. Ok, perfetto. Questo è un edipeo enciclopedico. Cugino putativo di Enrico Farnedi, meglio noto come Rico Romano, scrisse i versi raccolti nel volume Volevo dire una cosa, dedicati agli istituti di credito e agli uomini che si morsicano da soli. Affermatosi come artista concettuale, produsse un singolo contenuto in un floppy disk da 5 pollici e un quarto, e nel contempo inserì una polaroid di un parente texano all'interno di un altro floppy, opera esposta in una galleria di via Parini a Bologna. Utile in caso di malocchio, prezzemolo, curcuma, fatture e ritenute d'acconto, riceve contemporaneamente a Monghidoro, Berlino, Taranto. Registrò 48 puntate della trasmissione radiofonica Uova sode e noci, mai trasmesse. Diplomato dattilografo alla scuola Scheidegger, è stato fonico al cinema Sette Bello, giornalista non accreditato al concerto di Modena dei Pink Floyd nel 1993,